possiamo dire che è arrivato il giorno che sembrava non dovesse arrivare mai. È arrivato il giorno in cui l'Italia manda in soffitta i professionisti del tanto non ce la faremo mai. Manda in soffitta i professionisti del qui non si finisce niente. Manda in soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. Manda in soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. In soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. In soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. In soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. In soffitta i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. Sì, è vero, sono proprio un professionista. Un professionista della demotivazione. Sì, è vero, sono proprio pessimista. Non seguo più quel tuo squallido copione. E qua in soffitta si sta proprio bene, anche se siamo dimenticati. Ma nessuno ci obbliga ad applaudire, non ci sono emarginati. Fra ricordi e polvere qui si vive nel passato. Vinili, libri, fumetti, lettere, quello che è stato archiviato. Qui non si vecchia mai, non ci sono guerre, non ci sono rivalità. Contento di aver lasciato sotto il progresso e la società. Non c'è la vostra giustizia, non c'è sfruttamento. Noi mai siamo stati archiviati, usati in esaurimento. E non vogliamo lasciarci il passato alle spalle. Non ci interessano più tutte le vostre palle. Siamo malati ma non vogliamo guarire. Qui siamo fermi e non vogliamo ripartire. E se sei stufo della vita che fai, vieni con me in soffitta con i professionisti che tanto non ce la faremo mai. E se sei stufo di sentirti un numero tra le persone, vieni con me in soffitta con i professionisti del pianisteo e della lamentazione. E sì, sono un po' strano, diciamo pure pazzo. Allora mandami quassù, perché ti sto sul cazzo. Mandami quassù, perché sono un po' giù. A me fai solo un favore, almeno non ti vedo più. Qui abbiamo foto giallite in cui non invecchiano i visi. Qui non è mai arrivata la crisi. Qui i soldi non servono proprio a niente. Non serve più comprare la gente. Amicizie disinteressate, un po' di malinconia. C'è sempre qualcosa che ci mette un po' di nostalgia. Non esiste la cattiveria, forse a volte qualche rimpianto. Per qualche fallimento o qualche vecchio sogno infranto. Perché quassù non siamo mai cresciuti. Ridete pure di noi, voi che vi siete venduti. Vi lasciamo volentieri tutto lo stress che vi siete creati. L'ansia e la competizione per voi maturi integrati. Se quello che fai a loro non basta mai, vieni con me in soffitta con i professionisti che tanto non ce la faremo mai. Se non ti interessa più avere un'approvazione, vieni con me in soffitta con i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. Qui tra elettrodomestici rotti e qualche strano aggeggio non ci sono più delusioni, perché siamo pronti al peggio. Qui non esistono le mode, non dobbiamo più essere presentabili. Sono finiti gli esami, troppo vecchi per essere abili. Noi siamo in soffitta, ma tu ci vorresti alla neuro. Qui c'è ancora la lira, non è mai arrivato l'euro. Qui si chiude una porta, ma non si apre un portone. Senza padrone non è più un problema la disoccupazione. Non ci avete mai capito e non ci capirete mai. Quindi temetevi il vostro egoismo e i vostri guai. Temetevi le vostre medaglie, i vostri concorsi, i vostri titoli, le vincite e i vostri rimborsi. Tanto è quassù che abbiamo i segreti più interessanti. Vi guardiamo dall'alto, laggiù siete ancora in tanti. E presto o tardi vi manderanno anche voi. Ma sarà un problema che affronteremo poi. Se sei stufo della vita moderna e di tutti i tuoi guai, vieni con me in soffitta con i professionisti, che tanto non ce la faremo mai. Se sei stufo di questa cieca accettazione, vieni con me in soffitta con i professionisti del piagnisteo della lamentazione. Ho sputato nel piatto in cui ho mangiato, tanto è tutta roba mia. Sempre condita con la vostra sporca ipocrisia, nelle false amicizie, nelle false cene, sotto ci lamentavamo, ma qui va tutto bene. Tra macchinine, quaderni ingialliti e fogliettini, in fondo siamo tornati tutti bambini. Finalmente senza nessun invito a partecipare ai vostri aperitivi, sarete fieri di aver allontanato i personaggi negativi. Vi succhiano l'energia, vi succhiano l'allegria, liberi di non dover sempre ispirare simpatia. A mio agio con chi si è arreso, perché laggiù è sempre stato deriso e incompreso. E quassù non c'è nessuno superiore, non ci serve un educatore, tantomeno un animatore. Passano le stagioni e i governi, ma noi non li conosciamo. Cambiano le leggi che tanto non rispettiamo. Se sei stufo della mentalità da bottegai, vieni con me in soffitta con i professionisti, che tanto non ce la faremo mai. Se non ti interessa più avere un'affermazione, vieni con me in soffitta con i professionisti del piagnisteo della lamentazione. Se sai già che non verrai considerato per quello che dirai, vieni con me in soffitta con i professionisti, del tanto non ce la faremo mai. Se per te non c'è più considerazione, vieni con me in soffitta con i professionisti del piagnisteo e della lamentazione. I professionisti del tanto non ce la faremo mai. I professionisti del piagnisteo e della lamentazione. Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta. Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta.